lo sciopero è stato programmato per 8 ottobre da CGIL e CISL e UIL con le categorie dei metalmeccanici, degli edili e dei trasporti per il settore delle manutenzioni ferroviarie. Lo sciopero è le ultime due ore di ogni turno di lavoro e in contemporanea con lo sciopero abbiamo organizzato una manifestazione, un presidio davanti alla stazione centrale. Ovviamente scioperiamo e manifestiamo intanto per non rassegnarci alla banalità del male, al fatto che ogni giorno ci sono 3 morti sul lavoro, al fatto che ormai siamo abituati ai morti sul lavoro e quindi scioperare è sempre la cosa giusta da fare di fronte a queste tragedie che poi hanno delle responsabilità. In secondo luogo scioperiamo perché è inaccettabile l'ennesima morte d'appalto. Erano morti in appalto i lavoratori alla centrale Enel di Suviana, morti in appalto il lavoratore un anno fa, poco più di un anno fa, all'aeroporto Marconi, poi c'è stato il morto nel cantiere della Una Pian del Voglio e si muore come si moriva 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, sui binari delle ferrovie, neanche fossimo nel film di Ken Loach, poi Mick e gli altri, come a Brandizzo, e non è cambiato niente da Brandizzo, quindi è necessario fermarsi, chiedendo anche procedure diverse, di dare più tempo, di evitare la compressione dei tempi per le attività di manutenzione, di evitare di lavorare in condizioni di pioggia, di scarsa visibilità, di dotarsi di tutte le condizioni. Quindi invito tutte e tutti, cittadini, studenti, istituzioni, pensionati, lavoratori a partecipare con noi al presidio perché Bologna ancora una volta deve fare Bologna e dopo l'ennesima morte sul lavoro ci ritroviamo in piazza per dire basta morte sul lavoro, basta morte d'appalto. A proposito degli appalti nelle ferrovie volevo farti una domanda perché è appena un paio di giorni prima, per fortuna lì non ci sono stati morti, però insomma un sistema ferroviario si è paralizzato e secondo le motivazioni del ministro Salvini per un chiodo di un lavoratore in una ditta esterna. Che incidenza ha l'esternalizzazione nel settore delle ferrovie? Molto, lo dicevamo anche in questi giorni, la scelta di esternalizzare, privatizzare le attività di manutenzione poi produce un'enorme fragilità dei nostri sistemi di mobilità pubblica. Quindi io penso che questo della difesa e del rilancio dentro la transizione a una mobilità sostenibile, il nostro asse strategico è quella della mobilità su ferro, collettiva, per certi versi ecologica, su cui tutti dovremmo essere impegnati a fare di più, penso sia una battaglia che deve vedere anche una convergenza, una nuova convergenza. L'abbiamo visto nella difesa della Marelli a Crevalcore, l'abbiamo visto nel piazzale di fronte alla Breda Menarini. Io penso che anche per il rilancio di un trasporto pubblico collettivo come quello appunto del trasporto su ferro possa essere un terreno di convergenza ed un'alleanza tra sindacato e movimenti ambientalisti, ecologisti per la giusta transizione che può creare le giuste convergenze che in questo autunno ci devono portare alle mobilitazioni nei territori fino allo sciopero generale. Nel commentare la morte del lavoratore di San Giorgio di Piano hai sottolineato che in realtà non si tratta di una fatalità ma di un sistema produttivo che scarica tutto sulle spalle dei lavoratori. È così, ce lo dicono i nostri compagni del sindacato dei trasporti. La compressione dei tempi, perché le fasce per realizzare gli interventi sono estremamente limitate, potranno scaricare sugli ultimi la necessità di fare in fretta. In tutte le volte, poi ve lo vediamo nelle catene degli appalti, la difficoltà anche di avere un quadro chiaro delle informazioni, i contratti applicati, la formazione effettuata, le competenze necessarie. Che mondo del lavoro è questo? Se guardiamo anche solo quest'anno, cantiere di Esselunga a Firenze, prima la strage di Brandizzo e poi la strage di Suviana, insomma è un mondo del lavoro dove davvero si rischia la vita e la cosa terribile è che anche nei grandi contesti dove i committenti sono strutture pubblico partecipate, le condizioni di salute e di sicurezza non sono migliori. Questo davvero deve suonare un campanello d'allarme per tutti, far assumere a chi ha le responsabilità politiche, a partire dal ministro dei trasporti, tanto celere a precettare i ferrovieri quando scioperano, mi sembra molto meno celere nell'intervenire per consentire condizioni adeguate nella filiera degli appalti nel settore ferroviario.